geopolitica a quale funzione effettivamente adempino. Noi non abbiamo nemici ai confini, non sembra probabile che improvvisamente ne emerga uno, e la cosa potrebbe suscitare delle pericolose tendenze pacifiste in una popolazione di per sé piuttosto imbelle. Già qualcuno ha fatto notare che se proprio si vuole tagliare il bilancio, quello delle spese militari potrebbe essere un buon capitolo da cui cominciare. Una bella missione umanitaria ogni tanto, ben propagandata e ben seguita dai media, può fornire argomenti contro queste pericolose tendenze, anche se ovviamente per mandare un corpo di spedizione in Albania o in Libano, in Somalia, in Bosnia o in altri teatri di crisi non c'è alcun bisogno di una struttura militare pletorica sovradimensionata come la nostra. Ma queste sono minuzie tecniche di cui si può anche prescindere. Dal punto di vista generale, o meglio nel nostro caso dal punto di vista dei generali, se non ci fosse l'Albania ogni tanto bisognerebbe inventarla. And I'm standing in the darkness. I don't want to wait no more.